Vabbè, intanto finalmente riusciamo a presentare questi atti di questi incontri, li avremmo dovuti presentare a maggio e poi c'è stata una serie di problemi per cui abbiamo rinviato. Si tratta degli atti di due incontri che abbiamo tenuto come compagne, sono state organizzate questi due incontri a Roma dalle compagne della coordinamento e stasera abbiamo qui Elisabetta e Margherita, no, non ti trovavo, ho detto oddio dove se n'è andata lei, e Margherita, e varie compagne sono state invitate, tra cui anch'io, a partecipare a questi incontri. Questo opuscolo è, diciamo, la sbobinatura di questi incontri a cui abbiamo cercato anche di arrivare comunque preparate con dei ragionamenti e ci si voleva confrontare con donne che avessero fatto la lotta armata o che fossero in qualche modo state coinvolte nella lotta armata per capire la questione di genere, se e come si era posta all'interno dei gruppi armati. E con noi a questi incontri hanno partecipato Silvia Baraldini, Barbara Balzerani e Rosella Simone, che più che interna all'esperienza della lotta armata, lei è stata la compagna di Giuliano Naria, ha vissuto l'esperienza dei familiari dei prigionieri politici e poi si è fatta anche un anno di carcere, però appunto come ne parla lei quella è stata l'esperienza marginale in fin dei conti, no? Ma più l'esperienza proprio come familiare. Rosella ci ha raccontato di come anche tutta una serie di problemi che a un certo punto hanno incominciato ad esserci tra compagni all'interno del carcere si sono poi riflessi all'esterno sul comitato familiare, come abbiano creato fratture eccetera. E io penso che sia stato molto importante questo, sia perché si è rotto un silenzio, un tabù sulla partecipazione delle donne alla lotta armata, che come ogni volta che le donne si armano, come nella resistenza, insomma, c'è una totale rimozione. In generale in Italia c'è rimozione sul periodo della lotta armata, per cui questo, come dire, è il dato di fatto principale, però ecco, sul ruolo delle donne ancora di più, perché in qualche modo questa rottura della normalità messa in atto da queste donne, come se fosse poi una scelta improvvisa, no? Perché viene rappresentata così, quando poi a guardare le storie delle singole compagne in realtà è l'esito anche di un percorso che era in atto da anni all'interno delle lotte sociali, però ecco, si vuole rimuovere il fatto che le donne si armino. E lo stesso, appunto, dicevo, è accaduto anche con la resistenza, quando dopo la resistenza, a parte che il PC ha vietato alle donne che avevano fatto le partigiane in armi di scendere con le armi nelle parate, mentre gli uomini lo potevano fare, ed è stata costruita questa figura un po' sacrificale della staffetta, cioè sono state ridotte le donne a delle staffette. Non che le staffette, voglio dire, hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno messo in gioco la loro vita, però non c'erano solo donne staffette, ma su questo è stata attuata storicamente in Italia una grossissima rimozione. Mentre se andiamo a vedere nella storia dei movimenti rivoluzionari e dei movimenti di liberazione, la presenza delle donne in armi è sempre stata molto consistente e ha avuto anche spesso un ruolo centrale, con però questa, purtroppo, questa successiva ricaduta del rientrare nel ruolo pre-momento rivoluzionario, no? L'abbiamo visto nei movimenti dell'America Latina e in varie altre situazioni. E allora ecco, per questo alle compagne della coordinamento, ma insomma incontrando l'entusiasmo di tante, è sembrato importante porre questa questione e ragionare con le persone, con le donne direttamente coinvolte. A me piace, diciamo, in apertura leggere un breve passaggio, perché adesso trovo, e come sempre non trovo il passaggio quando lo voglio leggere perché ho fatto troppe orecchiette. Ah, eccolo qua. Quante volte mi sono chiesta: e se fosse stato il contrario, se io fossi stata in carcere e lui fuori, probabilmente avrebbe pensato ti vendicherò e avrebbe fatto saltare una caserma, ma la costanza di venire tutte le settimane a trovarmi non l'avrebbe mai avuta. Il privato è politico, mi hanno insegnato le donne, ma un privato che mette in discussione i ruoli codificati, che guarda l'accadere con occhi diversi delle ideologie che lo rivestono, il privato che ci consegna tutte, come Maria di Nazareth al figlio che muore sulla croce, immagine retorica potentissima, non rischia di essere una forma diversa di schiavizzazione che ci spinge a scoprire invece delle libertà una dipendenza? Questo secondo me è il nodo che noi siamo proprio andate ad affrontare e ne sono anche emerse, come dire, delle cose inaspettate. Io ora lascio la parola alle compagne della coordinamenta, che ringraziamo anche per essersi fatte questo viaggio fin qua oggi. Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti, e in particolare a Nicoletta, alle donne in cantiere, perché noi siamo molto molto contente di venire a discutere su questi incontri che abbiamo fatto, a parte che Nicoletta appunto ha partecipato direttamente ed è stata, a dire la verità, fondamentale in questi due incontri, però ci fa piacere discutere e portare avanti queste questioni, anche perché vengono fuori tutta una serie di argomenti, di domande, di una ricerca di risposte che riguardano anche il presente, cioè che riguardano proprio le nostre lotte e quello che poi andiamo a fare. Comunque intanto volevo raccontarvi in poche parole come ci è venuta l'idea di fare questi due incontri con le compagne della lotta armata. Un 25 aprile abbiamo sentito dai famosi palchi questi istituzionali una donna poi che ha fatto la resistenza, che adesso è un istituzionale, dire: non si capisce perché le donne che hanno fatto la resistenza, che sono state in armi, che hanno portato un grande contributo alla lotta partigiana, che poi si sono ritagliate degli spazi, dei ruoli e roba di questo tipo all'interno di quel momento storico, poi in effetti una volta tornate, finita la lotta partigiana, abbiano rinunciato a tutto questo e siano ritornate ad essere quello che erano prima. Ma la prima cosa che ci è venuta in mente è detto: beh, no, un attimo, fermi tutti, perché non è che le donne hanno rinunciato a tutto questo, perché altrimenti vuol dire che è ancora colpa loro, è colpa loro prima perché fanno delle cose, colpa loro dopo perché ci rinunciano, quindi è sempre colpa nostra alla fine. No, non sarà perché finito quello che si può definire un momento di rottura della normalità, poi ritornando nella normalità invece si sono riproposti tutti quei meccanismi di assoggettamento che sono sociali e non sono soggettivi, per cui di fatto sono state costrette a rientrare nei ranghi, perché poi ci siamo viste anche l'esperienza delle donne nella prima guerra mondiale, che in effetti, dato che tutti gli uomini erano al fronte, le donne durante la prima guerra hanno ricoperto tutti i ruoli in fabbrica, nelle officine, in agricoltura, nei servizi pubblici, eccetera. Dopodiché, finita la guerra, sono rientrate nei ranghi. Allora abbiamo detto: che cos'è che nei momenti di sospensione della normalità fa sì che i ruoli sessuati si ribaltino, si spezzino, cambino, che momentaneamente avvenga questo rivolgimento? E che cos'è poi che di fatto rimette le donne nella stessa condizione di prima? Ed è chiaramente non una scelta soggettiva, ma una scelta sociale. Quali sono i meccanismi che informano questa rottura della normalità e questo invece ritornare nella normalità dei ruoli sessuati? Allora, noi avremmo potuto anche parlare di situazioni storiche, appunto indagare la resistenza, indagare il periodo della prima guerra mondiale. Però ci siamo dette: perché andare a indagare una situazione lontana nel tempo, lontana nello spazio, che in effetti poi diventa storicizzata, messa lì, e su cui le testimonianze dirette non ci sono. Noi abbiamo avuto un momento di sospensione della normalità che appartiene alla nostra storia, che è quello della lotta armata negli anni 70, a cui hanno partecipato moltissime donne, a cui hanno partecipato anche in ruoli di comando e importanti, e quindi è con loro che vogliamo parlare, perché loro praticamente hanno attraversato questa esperienza in prima persona e ci possono raccontare se i ruoli sessuati si sono riproposti, se invece si sono sospesi, in che modo sono stati sospesi, cosa è successo ai ruoli sessuati in quella che è soprattutto il momento della clandestinità. Perché in clandestinità è una situazione che è la clandestinità, è una situazione che esula dai normali parametri che informano una società nel, loro nel suo funzionamento. E poi che cosa è successo dopo, quando l'esperienza della clandestinità è finita, quando loro magari sono state in carcere, quando loro sono state reinserite, per così dire, nella cosiddetta normalità, i ruoli sessuati sono stati gli stessi di prima, si sono riproposti, c'è stato un salto, cosa è successo? E allora, come diceva Nicoletta prima, abbiamo parlato con Barbara Balzerani, con Silvia Baraldini e con Rosella Simone, perché rappresentavano poi tra l'altro per esperienze diverse, perché Barbara aveva avuto un ruolo nella lotta armata qui in Italia, Silvia Baraldini un'esperienza diversa perché l'ha avuta negli Stati Uniti, e poi Rosella perché in effetti non l'ha vissuta come soggetto, diciamo, anche se ha fatto il carcere, però come donna in armi, ecco, però come familiare di un detenuto. E quindi abbiamo parlato con loro e sono venute fuori delle testimonianze ed è venuto fuori un risultato che è stato estremamente interessante, che ha portato poi a tirare fuori tutta una serie di conseguenze che poi vi racconteremo poi alla fine, sono proprio utili dal punto di vista della lotta anche adesso. Passo la parola a Margherita. Sì, io vorrei fare aggiungere una cosa dove magari Margherita, se vuole, può intervenire. L'aspetto interessante è stato anche l'altro punto di vista, ossia io ero rimasta molto colpita un bel po' di anni fa, quando una compagna era uscita dal carcere, da un affermo, una compagna che aveva fatto parte della prima generazione delle Brigate Rosse, che mi aveva detto: noi eravamo molto più avanti delle femministe in quegli anni, no? E a me questa cosa colpì tantissimo, infatti poi avevo provato a invitare questa compagna a questi incontri, ma lei mi ha detto: io sono disponibile a parlare di lotta armata, ma non mi interessa uno spazio separato, perché la scelta era di trovarsi tra donne, eccetera, non mi interessa questo argomento specifico. Dice: ma guarda che il mio interesse invece nasce proprio da questa cosa che mi avevi detto tu quando ero più giovincella. Ed è stato interessante anche questo tipo di confronto, perché per chi ha letto il libro Compagna Luna di Barbara Balzerani c'è un capitolo proprio che si intitola Femminismo no grazie, e dove racconta appunto di Barbara che vestita appunto nella maniera meno appariscente possibile, perché già è in clandestinità, incontra un corteo femminista, no? Di queste donne con i gonnelloni a fiori variopinte, eccetera, si sofferma a guardarle, a sentire gli slogan, eccetera, e non ci si riconosce. E allora era anche interessante questo, cioè il loro sguardo sul movimento delle donne, quindi anche il loro sguardo su di noi. In particolare lo dico per Barbara, perché in realtà Silvia Baraldini lavorava con un gruppo di donne, di femministe e di lesbiche negli Stati Uniti, e Rosella ha una storia nel movimento delle donne in Italia, no? Però a me incuriosiva proprio questa, come dire, questo giudizio anche tranchant di Barbara, quando per me, e gliel'ho anche detto, cioè negli atti, cioè lei è una vera femminista radicale invece, no? Cioè le sue posizioni, sia di solidarietà con le donne, sia appunto di autonomia dal maschile, per me rappresentano, come dire, un'ottima pratica. Anche ecco. Il vissuto delle donne. Che le... E lo esprime attraverso tanti passaggi anche nei suoi libri. Esatto, cioè. Infatti per questo anche per esempio Lascia che il mare entri, cioè questa genealogia di donne della sua vita, insomma è interessante, no? Allora è stato importante anche capirci, poi ti lascio subito la parola e non mi dilungo, però capirci su questo aspetto, cioè ma che cosa intendi tu Barbara per femminismo? Perché se per femminismo intendi quello che noi chiamiamo femminismo istituzionale o mainstream, che è, non ci riconosciamo nemmeno noi, cioè il nostro percorso è un percorso di tutt'altro genere, ma il femminismo non è soltanto quello, non è per dire la solita banalità, insomma, che ci sono diversi femminismi, però appunto ci sono diversi femminismi, ecco. Sì, infatti per questo siamo anche partite dalla definizione di ruolo sessuato, nel senso che poi per comprendersi su questo punto e per capire poi che cos'è il femminismo, no? Il ruolo centrale che ha la decostruzione dei ruoli, bisogna pure intendersi sul significato di questo ruolo sessuato. Quindi all'inizio degli incontri abbiamo cercato di definire anche attraverso le parole di altre compagne questi ruoli sessuati che sono proprio, diciamo, una messa al lavoro diversa del maschio e della femmina, quindi c'è un vero e proprio processo di accumulazione che non è quello soltanto della forza lavoro destinata alla produzione proprio di beni, no? E dell'accumulazione delle risorse, eccetera, ma c'è anche un'accumulazione della differenza tra uomo, tra femmina e maschio, per cui il lavoro riproduttivo è delegato interamente alla femmina, il lavoro produttivo al maschio. E quindi questi ruoli hanno una funzione socio-economica ben precisa e sono al servizio di quel sistema economico. Se così intendiamo il ruolo sessuato, che poi anche, diciamo, su questo si costruisce la cultura, no? Cioè la cultura, diciamo, che vuole la donna portatrice di alcune virtù, no? Cioè dell'ascolto, della comprensione, della cura, dell'accomodamento, che deve rinunciare alla propria aggressività e tutte queste cose. Però si basa su un'esigenza economica. Quindi se così la intendiamo, di conseguenza il femminismo e la decostruzione di questi ruoli passa per una critica anche al sistema socio-economico. Altrimenti, diciamo, si casca in quello che appunto anche Barbara critica, che è questo femminismo emancipazionista che si pone tutto sul piano della rivendicazione di diritti, di parità, diciamo, assolutamente formale, no? Quindi spartiamoci quello che questo sistema, dentro a questo sistema possiamo ottenere equamente tra uomini e donne, ma non c'è una reale messa in discussione. Questi sono i ruoli anche che abbiamo cercato, cioè è questo il concetto di ruolo che quindi ci siamo chieste nei periodi di emergenzialità o di sospensione della normalità, perché poi purtroppo sì, sono state delle rotture, hanno prodotto qualcosa, però in realtà sono state come delle parentesi, cioè poi quell'apertura storica, quel momento di rottura poi si è richiuso, quindi alla fine è stata un po' una sospensione più che un reale superamento. Quindi quello che abbiamo un po' scoperto, vi racconto alcuni diciamo, luoghi poi che hanno tirato fuori le compagne delle loro varie esperienze, è che ci sono state sia le esperienze di lotta che hanno fatto saltare questi luoghi, sia paradossalmente anche l'esperienza del carcere, che, diciamo, in cui sì, c'è stata anche la lotta dentro le carceri, ma comunque invece è come luogo di repressione, anche là dentro sembra paradossale, invece si è sperimentata proprio quella rottura della normalità che ha permesso anche dei percorsi di soggettivazione, di presa di coscienza delle donne che sono finite in quell'esperienza. Dal punto di vista delle esperienze di lotta c'è Barbara che ci ha raccontato sia la sua esperienza come combattente, per cui diceva io non mi sono mai posta il problema, diciamo, non ho mai ragionato sul problema della differenza di genere, perché nel momento in cui si prendono le armi, si fa questo scatto in avanti, insomma ci si mette in gioco così tanto, c'è soltanto il compagno o la compagna, e non importa, diciamo, se è un compagno o una compagna, che ti copre le spalle, per cui è indifferente che sia maschio o femmina, i ruoli saltano perché tutti abbiamo la stessa funzione, tutti condividiamo quel momento così avanzato di messa in discussione sia di se stessi che dell'esistente. Anche se poi, diceva, dopo, quando è arrivata la botta repressiva, sono ritornati fuori questi ruoli, anche perché si è incominciato a parlare, a quell'azione è andata male perché a capo era una donna, quella cosa non ha funzionato perché le donne avevano preso troppa iniziativa, insomma poi alla fine anche là, una volta che si è richiusa quella parentesi, sono ritornate fuori queste rivendicazioni. L'altra esperienza che ci aveva portato era invece l'occupazione delle case da parte addirittura dell'esperienza, diciamo, prima dei baraccati, che poi si convertono proprio in occupazione di case, no? Lui diceva, tutte le donne delle baracche, là, delle varie periferie di Roma, finché stavano nella baracca, cercavano, erano completamente nel loro ruolo e cercavano di abbellire la baracca, cioè con le tendine, e cercavano di essere pienamente le donne di casa, no? Quando invece si è passati dalla difesa di quegli spazi là, ad occupare degli stabili, a farlo tutto insieme, a fare delle esperienze di lotta condivise, allora lì si sono completamente dimenticate di tutta questa parte del lavoro domestico, no? Cioè hanno scoperto altro, hanno cominciato a rivendicare altro e quindi si sono spogliate di questo ruolo, non erano più soltanto le donne di casa, ma finalmente erano anche, no, nella vita politica, cioè avevano altri desideri, non importavano più le tendine rosa. Silvia Baraldini invece ci ha parlato, anche lei invece più, lei ha fatto appunto esperienze comunque in collettivi femministi e comunque avevano proprio veri e propri spazi interamente gestiti dalle donne, in cui organizzavano anche tutta una serie di non mutuo soccorso, cioè organizzavano una vita comunitaria, no? Per cui erano, diciamo, anche il lavoro di cura dei figli veniva vissuto in maniera diversa, perché non era ognuna a casa propria, ma erano questi spazi. Però ancora anche lei ci ha parlato del carcere come momento in cui le detenute lì dentro hanno incominciato a affrontare il problema della sessualità, perché c'era l'HIV dilagante, tutta una serie di malattie sessuali, eccetera, eccetera, e hanno trovato nel carcere il loro momento anormale in cui confrontarsi e incominciare ad indagare la propria sessualità e quindi anche, diciamo, forme di resistenza a questo tipo di, anche alle malattie, insomma, di presa di consapevolezza. E sul carcere si è soffermata anche Barbara, perché nella sua esperienza, che purtroppo è anche stata lunga, ha avuto modo di osservare che le donne che entravano in carcere all'inizio erano molto, anche le comuni, erano molto spaventate di lasciare il mondo fuori, quindi di doversi per forza, di essere strappate al loro ruolo di donne di casa, e avevano paura anche di essere sostituite in quel ruolo da qualcun'altra, perché adesso mio marito non rimarrà da solo a gestire tre figli, troverà un'altra che prenderà il mio posto, e questo era un doppio dolore per la donna: non soltanto sono qui in carcere, ma verrò anche sostituita. E poi invece a mano rimanendo là dentro cominciavano un po' a scordarsi di questo, anche lì a conoscere altro, a cominciare a desiderare altro e quindi a uscire un po' fuori da questo ruolo. Ma anche lì, tanto che ci raccontava di questa ragazza zingara che diceva, ogni volta entrava e usciva lei, perché erano sempre furtarelli così, e ogni volta che doveva uscire diceva no, non voglio tornare là fuori perché devo rubare, perché devo pensare a far da mangiare a quelli, cioè io vorrei rimanere qua dentro, mo esco e rubo subito un'altra cosa perché non ce la faccio a riaccollarmi tutto, no? Però anche là diceva la cosa, insomma, molto forte era che poi invece nel momento di uscire queste donne, che erano diventate tutt'altro nell'esperienza carceraria, poi ritornavano, come dice Barbara, la sora Maria di prima, cioè poi erano pronte a rimettersi il grembiule, insomma. E queste sono un po' le esperienze. E poi invece c'era quella di Rosella, che racconta di questo lavoro, diciamo, di supporto che facevano da fuori come familiari dei detenuti e dei compagni che stavano dentro, e parla di cura come sovversione, cioè racconta di questo percorso per cui a un certo punto si sono guardate e hanno detto, ma siamo tutte donne qua? Cioè non ci stanno i fratelli, non ci stanno i figli, non ci stanno, cioè siamo comunque tutte donne, sorelle, mogli, madri, ma siamo noi che ci occupiamo di questo, appunto, che abbiamo la costanza di andare in carcere tutte le settimane, no? E da questa evidenza si sono anche chieste, ma com'è che impieghiamo tutte queste energie per i nostri compagni, fratelli, eccetera, eccetera, che sono dentro, e tutta questa energia invece per noi, quando la impieghiamo, dove sta? Cioè, sono le loro istanze, sono i loro, le loro idee, no? Che sosteniamo, i loro diritti, le loro, e i nostri dove sono. E quindi racconta che questo processo appunto aveva fatto pensare che questa cura potesse diventare una pratica sovversiva, cioè facendola insieme nella prassi, anche lì, no? Mettiamo in discussione questi ruoli e cerchiamo di far diventare anche poi un lavoro che effettivamente è di cura qualcosa di diverso. Però dice, e qua appunto c'è anche un passaggio importante secondo me, se non si prende fino in fondo consapevolezza di quello che è poi, che cosa significa in fondo il tuo ruolo sessuato, di quanto appunto abbia una valenza socio-economica, poi alla fine finisci piano piano per essere rifagocitato nel meccanismo, e anche quel portato sovversivo che il tuo gesto aveva lo perde, e quello stesso gesto ritorna il ruolo. Tu continui a fare lo stesso lavoro, ma in una prospettiva che è di nuovo quella interna, no? Ti riaccolli di nuovo il ruolo di sostegno, di... però non c'è più nessuna carica, nessuna scoperta di se stessa, nessuna rivendicazione della propria potenza, alterità, eccetera, eccetera. E effettivamente, proprio per i rapporti tra femminismo, diciamo, di liberazione e femminismo di emancipazione, trovo che questo sia un punto chiave, nel senso che se non si ha presente che il problema della differenza tra i generi ha radici nel sistema socio-economico, si finisce per non saper più neanche cosa rivendicare, cioè si finisce per assumere l'ideologia dominante, il pensiero dominante, che può tranquillamente sfruttare tantissime delle rivendicazioni, soprattutto quelle delle donne ultimamente, no? Lo sappiamo tutti, e quindi tu finisci per riprodurre quello stesso sistema che volevi decostruire all'inizio, che volevi combattere all'inizio, e finisci per farti dettare la tua agenda dalla controparte, finisci per fare lotte corporative, finisci per, diciamo, incastrarti in una ritualità, ed è anche questo un altro dei nodi, perché indagare la rottura, la sospensione della normalità significa, diciamo, se significa veramente mettere in discussione delle cose, allora è incompatibile con delle lotte che diventano semplicemente dei rituali, per cui noi facciamo sempre le stesse cose perché non abbiamo, diciamo, idee diverse, o comunque non riusciamo bene a capire in questo momento quali sono gli obiettivi da praticare sul serio, quelli che veramente fanno male, e ci accontentiamo di rifare queste lotte ritualistiche. E questo è anche, diciamo, finiamo per, mi ricordo se in questa o in un'altra occasione una compagna parlava del carnevale e della quaresima, cioè finiamo per essere in un carnevale, un momento in cui i ruoli saltano, però primo si invertono e basta, non è che saltano, cioè tu in quel momento, ok, io sono sempre oppresso, faccio l'oppressore oggi, e poi il carnevale è un momento di sospensione che è limitato sia nel tempo che nei contenuti dall'alto, è qualcuno che ti dice, beh, sfogate in questa settimana che poi ritorna tutto uguale a prima, e ci sembra che effettivamente le cose siano un po' carnevalesche ultimamente. Io volevo ricordare anche un altro punto che mi ha colpito nei racconti delle compagne che hanno fatto la lotta armata, in particolare sempre quello di Barbara, che si riferisce alle donne che stavano in carcere perché avevano ammazzato il marito. Ed è una... diciamo, lei dice che finché non ci sono state le donne di mafia, le donne che andavano dentro perché avevano ammazzato il consorte erano quelle che hanno avuto e avevano le pene più pesanti e senza nessuno sconto. E questo è significativo perché praticamente è dichiarazione esplicita del fatto che una donna non può ribellarsi e non può scegliere degli atti forti per ribellarsi, perché viene di conseguenza punita, non può uscire dai ranghi. E questo è particolarmente importante anche per un altro fatto, perché noi siamo sempre abituate, una cosa con cui spesso, di cui spesso abbiamo parlato anche con Nicoletta, che giustamente l'ha tirata fuori tante volte anche lei, siamo sempre abituate a parlare delle donne che subiscono violenza, seppure anche per fortuna in una visione non vittimizzante come quella che impongono i media mainstream, ma anche il femminismo paristituzionale e istituzionale, però a parlare delle donne che subiscono violenza. Mentre le donne che si ribellano e le donne che finiscono in carcere per atti di ribellione rispetto a una violenza che subiscono quotidianamente, quindi un'autodifesa di fatto, queste vengono dimenticate dallo stesso movimento femminista, non vengono supportate per nulla. E quindi noi ci dovremmo abituare, dovremmo fare una scelta anche in questo senso, rispetto alla tutela, al supporto, alla partecipazione e anche alla presenza nei processi, non soltanto delle donne che hanno subito violenza in un senso, ma anche quelle che hanno avuto il coraggio e la forza di ribellarsi. Questa è una parentesi che mi aveva colpito molto questa cosa. E io invece volevo spendere due parole su quello che noi un attimo abbiamo definito il concetto di normalità, no? Cioè, quando uno dice spezzare la normalità, che cosa significa questa normalità? In effetti, noi siamo infilati in una società che si muove secondo determinati percorsi, che ci pone davanti a tutta una serie anche di scelte o di situazioni che tutte e tutti recepiscono come normali, come facenti parte di un discorso sociale che è quello che appartiene a tutti. Invece la normalità non è altro che una serie, noi l'abbiamo definita una gabbia, cioè una gabbia fatta di sbarre visibili e sbarre invisibili. Le sbarre visibili sono quelle i divieti espliciti che ti vengono posti a tutti i livelli. Le sbarre invisibili sono in effetti quelle che tu ti dai da sola perché hai recepito tutta la scala di valori che è quella del sistema. E questa nelle donne è particolarmente forte, perché le donne hanno un ruolo sia nel sociale che poi nella famiglia allargata o meno, moderna, postmoderna, eccetera, come quelle che vogliono fare o che fanno passare adesso. Cioè ha il ruolo di quella che trasmette la scala dei valori dominanti. Praticamente noi diciamo sempre che in effetti anche i maschi li allevano le donne, no? Cioè la scala di valori patriarcale, di fatto siamo anche noi che la portiamo e la portiamo avanti e la trasmettiamo, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo infilate in tutta una serie di meccanismi che ci fanno credere che siamo libere di scegliere, che ci muoviamo entro una scala predeterminata ma che è comunque normale. Mentre da una parte sono appunto i divieti ufficiali, anche quelli per legge, tutta la serie di norme che adesso è diventata sempre più eccessiva e sovrabbondante, però c'è moltissimo questo introiettare tutta la gamma delle sbarre invisibili che poi ci porta a ripetere e a sentire come normali i meccanismi sociali che invece ci vengono imposti. Quindi spezzare la normalità significa vari livelli di azione, quindi sia opporci e cercare di spezzare quelle che sono i meccanismi espliciti che ci pone la società fuori, quindi opporci alle leggi di un certo tipo, tutta una serie di meccanismi prevaricatori e compagnia, ma anche cercare di spezzare quella che è questa autocostruzione in cui ci racchiudiamo e che è soltanto con la consapevolezza politica che viene fuori, con la presa di coscienza di genere, presa di coscienza di genere e di classe, insomma. E questo ci porta poi oltretutto a pensare che tutta una serie di meccanismi anche di lotta siano quelli normali che mettiamo in atto, mentre non sono altro che quelli che ci concede il sistema, per esempio, no? Cioè il fatto di portare avanti, dico una sciocchezza, il fatto di aver accettato lo sciopero in tutta una serie di, con tutta una serie di limiti, di impostazioni, di orari, no? Fasce di sicurezza e compagnia bella. Quello è una prevaricazione esplicita che però accettiamo abbastanza, nel senso ormai siamo entrate nell'ottica che lo sciopero è fatto entro dei limiti di legge, cosa assurda perché lo sciopero dovrebbe far male, è un'arma. Allo stesso tempo però c'è tutta una serie di lotte, per esempio, che noi chiamiamo rituali, per cui, come diceva Margherita prima, scendiamo in piazza, facciamo la manifestazione, portiamo delle istanze, urliamo nella piazza, però non ci rendiamo conto che quello è lo spazio che ci hanno lasciato e poi rientriamo nei ranghi. Quindi anche rispetto a quello noi dovremo cominciare a pensare come spezzare questa normalità in cui ci hanno infilato e ci hanno fatto credere che sia anche una modalità di lotta, tra l'altro. Sì, io a questo proposito vorrei aggiungere, mi veniva proprio in mente con questa questione dello sciopero come elemento che un tempo era di lotta e oggi rischia di diventare uno strumento addomesticato, no? Che rispetto a quello che dal mio punto di vista è il criticabilissimo corteo che c'è stato sabato scorso a Roma, da una delle assemblee organizzative di quella manifestazione è venuto fuori lo sciopero delle donne l'8 marzo, cioè perché le donne non scioperano, così in qualche modo tu ti sei già resa prevedibile, no? Cioè il bello dello sciopero, appunto lo sciopero selvaggio aveva come senso quello, invece adesso è lo sciopero addomesticato, no? Ed ecco quindi come, passando attraverso un discorso che parte dalla violenza maschile sulle donne, si arriva a addomesticare ulteriormente le donne facendoci scioperare l'8 marzo, cosa che io sicuramente, se dovessi lavorare l'8 marzo, non farò, ma manco pagata, piuttosto sciopero a sorpresa il 9, non so come dire. Però ecco le porcherie che stanno passando, no? Cioè la tua prevedibilità, quindi la neutralizzazione di un... E poi certo che quel corteo mirasse, e con i tavoli successivi, a rendere prevedibile ed addomesticare qualunque forma di lotta, ponendosi come il femminismo, appunto, quindi negando i femminismi, è un discorso che andrebbe approfondito. Però quell'elemento dello sciopero per me è estremamente significativo, e quando l'ho visto annunciato in maniera trionfale da quell'assemblea, per me è stata proprio una cosa che ho detto va bene, cioè, siamo proprio alla fine del movimento delle donne. E poi lo rendono anche interclassista, perché visto che non c'è assolutamente un connotato di classe né in quella piazza né nei tavoli né nelle proposte successive, lo sciopero delle donne, di tutte le donne, cioè allora scioperano le parlamentari, scioperano le padrone, scioperano le sindacaliste, scioperano tutte? Cioè, le magistrate, le poliziotte. Le poliziotte, quindi? Non c'è nessuna indicazione in quel senso, quindi non solo si nega, non è che si negano i femminismi, perché loro ci stanno anche a tutte le varie varianti, si nega il femminismo di classe, cioè è quello l'obiettivo da... diciamo colpire, non è, cioè, poi puoi fare, capito, ci possono essere varie sfaccettature, basta che non entra il fatto che la contraddizione di genere è associata alla contraddizione di classe, quello deve essere proprio dimenticato e spunto completamente. Ma si dimentica una cosa fondamentalmente, si dimentica che il femminismo è rottura dell'ordine in cui siamo, perché è necessariamente rottura, perché essendo il patriarcato assunto in toto dal capitale, il capitale non è che ha assunto il patriarcato perché, non lo so, il patriarcato è qualcosa che vaga qui per la stanza e ha detto oh sai che ti dico, il patriarcato va bene anche a me. No, siccome il patriarcato è un modello economico, al capitalismo è andato benissimo, anzi l'ha raffinato e l'ha adattato alle proprie esigenze, È chiaro che il patriarcato fa parte in tutto e per tutto del modello capitalista. A parte questo, quindi a parte il contesto specifico in cui noi siamo infilate, il femminismo, essendo rottura dei ruoli costituiti, essendo rottura dei ruoli sessuati e necessariamente quindi, dato che il ruolo sessuato è un'organizzazione gerarchica, dato che il patriarcato è una struttura piramidale, quindi maschile e femminile in funzione della produttività, è rottura con i meccanismi autoritari, è rottura con i meccanismi gerarchici, è rottura con i meccanismi meritocratici, quindi è rottura con questo ordine sociale. Il femminismo è di per sé rottura di questo ordine sociale, altrimenti non si capisce perché nel nostro orticello gli ordini gerarchici dovrebbero essere sparire per incanto, mentre nell'orto generale possono rimanere. Quindi, siccome il femminismo è necessariamente antagonista, si dimentica che cos'è il femminismo. Di conseguenza, se il femminismo è un movimento politico o che vuole uscire da questa società, non può necessariamente essere interclassista, perché essere interclassista vuol dire che io accetto questo ordine sociale perché va bene a tutte le classi e mi pongo il problema di come migliorare i rapporti all'interno di questa società. Quindi di per sé sedare il conflitto. Quindi di per sé lo sciopero delle donne è un momento di per sedare il conflitto, soltanto per far vedere quanto noi siamo indispensabili, che possiamo essere apprezzate adeguatamente, quindi ognuna al suo livello, e ognuna al suo livello deve rimanere. Cioè l'ordine gerarchico sociale, la magistrata, la poliziotta, ognuna nel suo ruolo deve essere apprezzata per il lavoro che fa, quindi non c'è niente di antagonista, è tutto all'interno di questa società. Quindi è una presa di posizione che è assolutamente congeniale a questo sistema, è assolutamente tutta interna, perché secondo me una cosa in questo momento storico è venuta meno, sia nel movimento in generale, sia nel movimento delle donne, e sia nel movimento delle donne in particolare, che noi siamo qui a parlare di questo, e sia nell'aspetto esterno, sia nello specifico nostro, cioè è l'individuazione del nemico. Se una non parte dall'individuazione del nemico, non che si capisce contro chi si deve, non si capisce contro chi si lotta, cioè non si hanno chiari gli obiettivi, non si hanno chiari i percorsi, si finisce per lottare anche contro se stesse. Faccio un esempio, passiamo al fronte generale. Questo è un momento capitalismo neoliberista. Il neoliberismo ha dei percorsi e delle modalità tutte sue, perché è un capitalismo che ha portato al potere, chiamiamolo così fra virgolette, la borghesia transnazionale, cioè c'è una borghesia imperialista che rappresenta le multinazionali, che ha portato avanti una lotta senza quartiere contro le borghesie nazionali. Cioè adesso la destra tradizionale, quella che andava, che era considerata destra fino a ieri, fino ad oggi, eccetera, è quella che porta avanti le borghesie che hanno interessi nazionali nel nostro territorio, le imprese varie, eccetera. Invece la borghesia transnazionale, quella delle multinazionali, è all'attacco, porta un attacco fortissimo alle borghesie nazionali, praticamente ha vinto. La destra tradizionale supporta l'imprenditoria locale. La socialdemocrazia, che è il PD, e annessi, connessi e collaterali, è quella che si è assunta il carico di portare avanti gli interessi delle multinazionali. E non è che lo dico io per partito preso, perché il PD mi è antipatico, lo dico perché è il frutto di un percorso che dagli anni 90 il PD, con i suoi ministri in tutte le sue accezioni, poi che ha cambiato, i ministri, i governi, con tutte le leggi e i passaggi che ha fatto sull'istruzione, sul lavoro, sulla guerra, le scelte di guerra, sui rapporti internazionali con gli Stati Uniti e con la NATO. Cioè tutti questi passaggi lo definiscono, si autodefinisce da solo come portatore degli interessi della borghesia transnazionale. Allora, se noi vogliamo combattere il neoliberismo e quindi la precarizzazione, l'approccio al mondo del lavoro, l'approccio al mondo della scuola, l'approccio al sociale, la criminalizzazione della povertà, le guerre neocoloniali che hanno portato tutte queste migrazioni, perché la roba viene da lì e quindi non è un fenomeno che è nato da niente, dobbiamo individuare chi è portatore di questo e quindi, per esempio, dire chiaramente che le politiche neoliberiste in Italia le porta avanti la socialdemocrazia riformista, che è il PD. Se noi individuiamo il nemico nel PD, una domanda da $1 milioni, come facciamo ad andare in piazza il 26 con quelle che sono le strutture affiliate al PD, vale a dire l'UDI, le case internazionali, i vari centri antiviolenza che, a parte certe lodevoli eccezioni, sono tutti della provincia, del comune, della regione, annessi e connessi. Cioè, come si può andare a una chiamata che viene fatta da quelle componenti che dall'altra parte ci precarizzazione sul lavoro, precarizzazione nella scuola, impoverimento generalizzato, guerre neocoloniali, eccetera. C'è una grossa contraddizione. Se una non riconosce il nemico, non riesce a gestire le lotte. Non riesce. Allora, questa chiarezza nel movimento femminista non c'è, o comunque non ci vuole essere, o comunque non si affronta questo. Ed è un nodo fondante. Perché poi che cosa succede? Che non individuando sul fronte politico generale il PD come nemico, non si capisce neanche l'uso che il PD fa della violenza sulle donne, della violenza sulle diversità, del razzismo, no? Perché una delle caratteristiche fondamentali di questo tipo di impostazione è proprio usare le diversità, le donne, i diritti, eccetera, per rafforzare il proprio dominio, per cui ingloba le donne che sono disponibili a continuare a supportare le politiche neoliberiste, a portarle avanti, a approvare questo tipo di legge, a supportare questo tipo di sistema, per darsi la patina, è un pink washing interno, a darsi la patina di quello che tutela le donne, le diversità e compagnie belle, mentre porta avanti proprio attraverso queste donne politiche che affossano, impoveriscono, distruggono le vite di tutte le altre. Allora, se non c'è questo, finisce, cioè se noi non ci rendiamo conto che attualmente il femminismo è attraversato fortemente dalla classe, mai come adesso, ci sono le donne che supportano il potere e quelle che stanno da tutto, cioè che stanno sotto. Quindi infatti, cioè in questo episodio, diciamo, del 26, si finisce tutte quelle che partecipano per spostarsi sul piano dell'egalitarismo, per cui sono loro stesse a chiedere più leggi, a interrogarsi su quale legge, quale misura cautelare, quale corso di sensibilizzazione ai magistrati chiedere. Quali servizi sociali? Si arriva a chiedere una risposta più reattiva dei servizi sociali. Si finisce anche, purtroppo, anche, diciamo, quelle che votano no a questo referendum, però a farlo da posizioni di destra, cioè a dire per la difesa della Costituzione. Noi anche votiamo no e sosteniamo il no, ma non per la difesa di questa Costituzione, che non ha niente di socialista, non ha niente di, cioè è frutto di un compromesso. E invece si finisce anche là per dire la Costituzione che vorremmo, quale riforma costituzionale vorremmo. No, io non voglio questa, non ne voglio altre, cioè, non voglio lo Stato. Non, ma di certo non ti vengo a chiedere più leggi, e finiscono per fare questo anche diciamo, tutta una serie di soggettività che nel loro quotidiano, nelle tutte le altre lotte che portano avanti, sono le prime a finire negli ingranaggi della repressione, cioè sono le prime a finire davanti, capito, a un giudice che applicherà, cioè, quelle leggi borghesi contro di loro. E poi ci spostiamo sul piano della violenza o dell'utero o di qualsiasi questione intesa come prettamente femminile, e si dimentica qualsiasi coordinata, si dimentica qualsiasi, diciamo, paletto che si mette normalmente. Sì. A me infatti viene in mente una cosa, riportandoci anche al libro, alla pubblicazione che presentiamo oggi, no? Quando, a parte appunto che nel 2007 era Cacciamo le ministre dal palco, 2007, e non era un sì, certo, un corteo pubblicizzato da Repubblica, cioè dai servizi segreti, certo, dal Fatto Quotidiano e da tutta questa brutta gentaglia. Ma mi ricordo che anni fa, quando c'era un percorso vario di donne femminista che si chiamava Sommosse, ad una riunione intervenne una compagna parlando di una ex brigatista, la Marina Petrella, che stava molto male in Francia, cioè pose questa questione dicendo alle donne italiane, insomma, c'è questa compagna che, se voi intendete supportarlo, che apriti cielo, quelle che sono state le grandi sostenitrici di questo corteo del 26, che cosa fecero? Dissero: di ah no, la lotta armata, quella è violenza, noi di queste donne non ne vogliamo sapere, eccetera. Cioè, è lì appunto dove tu sei dalla parte dello Stato, sei dalla parte del... Fu anche una spaccatura, mi ricordo, in quella riunione, perché molte di noi si incazzarono con queste che non volevano assolutamente che si parlasse di fondo del rapporto tra donne e violenza agita, perché finché si parla di donne e violenza subita, allora tutto bene, tutto è d'accordo, appunto nella vittimizzazione, no, ci si ritrova. Sulla violenza agita, sulla violenza di classe, e no, quello è un argomento tabù e non si tocca. E io credo che questo sia stato estremamente significativo, insomma, sono quelle poi che hanno promosso sto corteo, certo, alla fine. Non solo, ma questo episodio che dici tu ha segnato il percorso femminista. Quella era un'assemblea, una plenaria fatta all'inizio del 2008, se non mi sbaglio, ha segnato questo percorso, perché quelle stesse componenti nel 2009, nel novembre del 2009, volevano andare in piazza, e poi loro sono andati in piazza, togliendo la discriminante antifascista. Praticamente sono andate in piazza soltanto come antisessiste e antirazziste, come se si potesse essere antisessiste e antirazziste senza essere antifasciste. No? Perché? Perché perché questo avrebbe aperto poi al se non ora quando, che è venuto dopo, perché il percorso non è mai, cioè le scelte non sono mai casuali, ha aperto a se non ora quando sul palco di se non ora quando sono andate le fasciste, era aperto alle mentre fasciste. Nel 2007 le cacciamo dal mentre corteo. Nel 2007 erano state però cacciate, anche perché si sono fatte più furbe, non soltanto loro ma in generale, cioè quando noi abbiamo parlato in questi incontri di normalità ma anche di normalizzazione, no? Che è il processo, tutti i processi attraverso i quali ti fanno ingoiare questa roba e poi te la fanno riprodurre anche a te. E adesso, non so, chiunque lavori nel mondo della scuola lo sa, no? C'è un'ossessione valutativa che alla fine è questo, cioè tutte queste prove di valutazione che non sono soltanto degli insegnanti verso gli studenti, ma sono anche degli insegnanti tra di loro, per cui poi c'è la figura del preside che ormai è diventato uno sceriffo che sovraintende a questo rapporto di valutazione reciproca, dell'azione reciproca, cioè per cui, no, cioè è tutto un sistema che passa sulla, chi è, che scusate, punta chi ha il cellulare? Sociale, cioè la rivendicazione di diritti sociali, quindi economici e quindi di classe, eccetera, adesso hanno lasciato il passo. Ma il diritto sociale è astratto. Il diritto civile ci sono tanto di carabinieri e forze militari e magistrati e carceri. Diritti civili, come dicevi, di rivendicazioni individuali, no? Per cui ognuno vorrebbe il proprio diritto confezionato su misura, no? Per le proprie aspirazioni, tendenze sessuali, chi più ne ha più ne metta, no? Cioè ognuno con il suo piccolo desiderio individuale che non riesce mai ad essere, cioè una rivendicazione invece che può essere collettiva. Cioè, esattamente qui. Diciamo che il neoliberismo ha una, mette in atto una, un tentativo che in parte è riuscito, che è quello della spoliticizzazione del conflitto, no? Cioè riducendo tutto a lotte, come diceva anche Margherita, categoriali, togli la valenza politica alla lotta e quindi impedisci che le lotte si riconoscano poi, per esempio, fra di loro e vengano riportate ad unità, no? Perché l'unità delle lotte non è che la riconosci in una più una, non è una somma algebrica per cui una lotta unita un'altra che scende in piazza fa una forza maggiore. La forza la trovi quando riconosci la matrice politica comune, che è poi la ragione dell'oppressione, o riconosci da dove vengono le oppressioni che poi vengono diversificate in vari campi. Questo il neoliberismo è stato bravissimo a offuscarlo, quindi in pratica la spoliticizzazione del conflitto che è in atto adesso è fortissima, tant'è vero che le rivendicazioni passano più facilmente attraverso le associazioni dei consumatori che non i gruppi politici, no? Infatti si rifà al discorso che dicevi. Io dicevo ad Elisabetta prima, no? Una cosa che a me ha colpito, una notizia che era emersa ultimamente, è che a Massa, tornando alla questione di genere, ad un certo punto si è scoperto che era appena stato aperto uno sportello antiviolenza e a gestirlo era un fascista che aveva partecipato a varie iniziative antiabortiste. E poi ho saputo da una compagna che aveva lavorato con il centro antiviolenza di Massa, che però non ne faceva più parte, che le donne di questo centro erano rimaste stupite, si stavano interrogando di come fosse potuta succedere una cosa simile, no? Non so come sia andata a finire, se l'abbiano... No, non succede tutto nella mia città, Massa. Esatto, Massa, infatti è una città fascista, si sa. No, però, cioè, è emblematico dell'aver consegnato, no? Cioè, questo discorso, appunto, legalitario eccetera, ha portato poi a questo, per cui anche il fascista si ritrova in mano uno sportello antiviolenza, cioè mi sembra non da poco, cioè ci sarebbe, il problema non è andare contro questo singolo individuo ma interrogarsi su che cosa ha creato un terreno fertile perché questo potesse accadere. Chiamati, va a vedere il palazzetto. No, ma detto il portamacchina. Ma anche il portamacchina. Però via la macchina. Vanno per via la macchina. Vai a vedere, perché l'ha portata via la macchina. Magari posso rispondere alla compagna Gina? Allora, una nota che diciamo è a margine, però che volevo chiarire rispetto a quello che hai detto tu, che il corteo deve essere organizzato, che il corteo era un po' chi beveva chi... No, non è questo. È che secondo me non è la forma della lotta che è importante, voglio dire, una può fare la performance, può andare in giro in mutande, può fare il corteo organizzatissimo con lo striscione, può fare l'importante sono i contenuti. No, su questo sono d'accordo, o meglio c'erano, altro che c'erano, erano contenuti ancora di più. Ecco, no? Per cui io non penso che, cioè mentre ritengo come compagna importante l'organizzazione, non è che sfondi una porta aperta rispetto a questo, ma l'organizzazione è di tanti tipi, cioè non è necessariamente essere inquadrata in qualche cosa, è avere chiari gli obiettivi e perseguire in maniera coerente gli obiettivi rispetto a un contenuto politico. Per me sono sempre più importanti i contenuti politici, cioè no, sono fondanti i contenuti politici e le lotte poi, siccome questa è una cosa che ci è stata rimproverata anche negli anni 70. Però anche che quando tu cerchi i contenuti serve andare, è quasi automatico, non c'è dicotomia di come ti comporti, no? Beh, lo non so è vero dire. Questo, perché no, una può andare anche in mutande, sai, non è proprio... Abbiamo questa dicotomia, allora io non sono dicotomica, non ce l'ho. Mi metti di dire, cioè io non vado in piazza se c'è dei contenuti, ce lo coltivo, ho uno scopo perché sono lì, no? No, questo sicuramente. Non è che mi dico saltello l'ubriaco e faccio tutto. Beh, però se io saltello l'ubriaco... Ho da fare qualche cosa. Beh, se io, non lo so, saltello il mio ubriaco e rompo i tornelli a un della metro... Ma non va bene. Vabbè, insomma, questa è una cosa, cioè il fatto... Ora io non sto parlando tanto anche a no, no, vabbè. Anche alla macchina, no, no, no, però siccome. Cioè lo vedi, capito un po'. A me mi ricordava tanto, scuola tanto Genova, infatti poi dopo abbiamo preso per legnate, che bastava che ci si fermasse, io lo dico sempre, mi viene quasi da ridere, considerando il peso politico che è stato la, e poi la vita di Carlo, no? Per cui c'è certo. Rispetto alle giornate di Genova. Però ti viene da dire che dici, bastava che ci si fermasse, ci si giravano, eravamo un mondo a Genova, capito? Io abbiamo fatto che coda, avanti e indietro, fa anche amori schiacciati, hai capito? Che qualcuno è anche caduto per ripigliarlo, si è autoammazzato da solo, no? Ma ti dà il senso di cosa sta succedendo, ecco perché ti dico... No, ma io sono d'accordo... L'organizzazione, abbiamo l'analisi della fase, no? Perché facciamo, capito, le cose... Io sono d'accordo sull'organizzazione, ma dicevo che non necessariamente risponde a certi, chiamiamoli stereotipi, no? Perché l'organizzazione è fondamentale, tant'è vero che il movimento femminista, quello che passa per movimento femminista che ha monopolizzato gli anni 70, c'ha anche la grossa responsabilità di aver demonizzato l'organizzazione, per esempio, cosa che è un errore, è stato un errore perché l'organizzazione in piazza, l'autodifesa in piazza eccetera eccetera è una necessità, questa è questa. Beh, ma sai, la manifestazione del 26 non aveva paure, no. La paura ce l'avevamo noi, sì, infatti a me la manifestazione del 26. Il corteo si protegge nel momento in cui porta veramente avanti delle istanze antagoniste. Se le istanze sono assolutamente compatibili, da cosa si deve proteggere? C'è i poliziotti dentro, non di fianco, insomma. No, non neanche di fianco, perché il cervo, perché lo sai che per il niente ci non essere, non si vedono neanche. Il giorno dopo io sono andata all'altra manifestazione, a parte da dentro il medico che ci ha fatto passare nelle catombe, insomma, lasciamo perdere. Però non c'era l'unico pezzettino che abbiamo fatto in Roma, perché poi ci ha fatto andare nel deserto del Sahara e non ci ha visto nessuno, e in mezzo alle frasche, insomma, in mezzo alle frasche, io penso di aver mai visto Roma, l'ha fatto per la notte, perché si avventavano a Roma, pensavano ci fossero i monti, a ogni possibile uscita laterale di Roma c'erano... In realtà blindato, capito che c'era. Io una cosa che ho notato è che c'erano i blindati davanti alla sede della CGIL a Via Po, abbiamo mandati, sì, e i blindati davanti alla sede della CGIL, sì, che aveva un bello, sì, striscione, bravo, contro la violenza sulle, bravo, donne, no? E però in quell'occasione, cioè il giorno dopo, ci metti i blindati davanti, perché sai che quello sarebbe un obiettivo praticabile per quel corteo, mentre invece quella stessa CGIL stava nel corteo del giorno prima. Camusso ha fatto la chiamata per il corteo, la Camusso. Qualche persone del Black Bloc avevano avuto, magari quello può essere. Piattaforme sono piattaforme. Ma non c'è niente, uno gioca sui contenuti e gioca. In realtà il contenuto non passa. Ma se tu vai in piazza su una piattaforma, passa la piattaforma. Certo. Come no? E tu fai da massa di manovra lì, ok? Per forza, perché non ho, cioè, di fatto vai a supportare la chiamata, no? No, poi quello che diceva adesso il compagno, cioè se non si separa nessuno, cioè continueremo a non separarci, nel senso che secondo me adesso andiamo a vedere dove va a finire, no? Ma quando arriverà anche a quelle che hanno partecipato in buona fede, no? Cioè, quando arriverà la disillusione di quello che è stata questa giornata, di quello che è questa manovra dall'alto, no? Sulla violenza, cioè io spero che qualcuno, capito, guarderà a destra e a sinistra, e a sinistra ci troverà le compagne che hanno detto da subito no, questa piattaforma, cioè, significa lottare contro se stesse, cioè che tu comunque devi tenere la barra dritta, non è che se tutti svirgolano a destra tu... C'è stata una identificazione voluta e spinta dal sistema, ma accettata, supportata e tollerata da anche la sinistra di classe, della sinistra riformista col concetto di sinistra, cioè è passato che la sinistra, cioè che il PD, che la sinistra riformista, che tutta una serie di tutta un'area era rappresentativa della sinistra. Mentre hanno portato avanti politiche di destra in tutti i campi, sia nel lavoro che nella scuola che nel sociale, sia nella guerra, cioè nello spingere e supportare tutte le politiche di guerra e di militarizzazione, hanno portato avanti il politicamente corretto, che è stato devastante nei confronti del comune sentire, perché hanno fatto passare l'idea che la sinistra è perbenista, pavida, che è spoliticizzata, interclassista. Tutto questo comune sentire che è stato portato avanti dalla socialdemocrazia, che si è... Ha comportato una cosa, che la sinistra è stata identificata con questo e che ha regalato il dissenso, l'estraneità a questa società, la voglia di cambiare alla destra. Sì. Cioè il fatto che adesso la gente sia spostata, noi di questo purtroppo dobbiamo prendere atto e fare un serio esame di coscienza. Il paese è spostato pesantemente a destra e questa è colpa dello spazio che noi come sinistra di classe abbiamo continuato a dare, a tollerare alla sinistra socialdemocratica. Noi ci siamo portati dietro questo cancro, il politicamente corretto ha ammazzato l'idea di sinistra e adesso sarà durissima recuperarla, perché... Perché lo stesso femminismo, adesso appena comincia a parlare di femminismo, alla gente gli si rizzano i capelli in testa, perché il femminismo viene identificato con quelle barre istituzionali, con le quote rosa, con le rivendicazioni da orticello, con la rottura di scatole, di tutta una serie di cose nei riguardi di tutti, con delle pretese categoriali e corporative. E così anche la sinistra viene identificata con la legislazione di sicurezza, con le tasse, con la precarizzazione della gente, col perbenismo, viene identificata con la guerra, con tutto questo. C'è uno spostamento a destra pesantissimo. Se noi non prendiamo le distanze pesanti da tutta questa gente qua, noi non arriveremo da nessuna parte. Quello è sicuro, però come chiama, sono un po', anche se con tempi dilatati, sono un po' come chiama... No, no? Diciamo... Quando è venuto Obama l'ultima volta, che è venuto anche per assicurarsi, no, che il TAR della Sicilia dicesse sì, il MUOS è tutto a posto, no, perché avevano, cioè, c'era la battaglia in quel momento così, e Obama è venuto a fare il suo giretto, no, da imperatore qual è, ad assicurarsi che i suoi vassalli, no, facessero un negro di sinistra, Obama. Un negro di sinistra, l'imperatore negro di sinistra che c'erano loro, è venuto, hai detto negro, sì, hai detto negro invece di là davanti all'ambasciata americana, capito? Cioè sia con forme un po' infantili, no? Di un po' estetiche, con gli aeroplanini a fare i, diciamo, di protesta, no? C'era una costruzione un finto muos fatto di carta con gli aeroplanini che volavano, con la forma che c'era, cioè eravamo 20 persone con una campagna che abbiamo provato a fare in 6 dentro all'università, di interventi alle elezioni, striscioni dappertutto, assemblee, capito, contro la NATO, cioè per l'uscita dell'Italia dalla NATO, per l'antiamericanismo, per contro le guerre imperialiste, bla bla bla, 20 persone. Adesso, no, e questo è il punto interessante, che adesso che è stato eletto Trump, vuoi vedere la prossima volta che viene Trump qua, maree oceaniche ci saranno. No, secondo me invece si ritroverà, maree oceaniche, secondo me c'è un rin. Esatto, e questo è il punto, ci andranno le maree oceaniche con il PD e i compagni e le compagne che ieri non ci stavano accanto a noi contro Obama, ci saranno in piazza contro Trump e insieme al PD. Questo è il dramma, questo è il problema. E noi che famo? Ce l'andiamo agli castelli, veramente. Esatto. Cioè, che famo? Vediamo Via Reggio a fare il bagno, perché ci Quella è sì, no. Sì.